buonasera e ben ritornati a Mighty FM. Dopo settimane di Tunzi Tunzi, come la nostra sigla Tecno Maraia, a base di Club to Club Festival e poi Empress Off che ci ha fatto zompettare a Milano, e poi un sabato sera di DJ set molto bello grazie agli amici della Roboterie, Mighty FM trova conforto, come scritto nella nostra presentazione, nel suono calmo, confortante appunto, e triste, ma quando appunto la tristezza fa bene al cuore, come abbiamo anche scritto, della musica di Magical Clouds, scritto in modo strano con la J a posto della G e della Z a posto della S. Sono un duo canadese di base a Montreal che conosciamo già da diversi anni, ma abbiamo un'ora e mezza davanti a noi per parlarne, per parlare di questo bellissimo nuovo album uscito il 16 ottobre. Si chiama Are You Alone e questo è il pezzo di apertura, come sempre, Disappeared. Disappeared, brano di apertura di Are You Alone, che si chiude con questo sax malinconico appena accennato, come accennata appena la strumentazione, questo pianoforte che appunto dà l'inizio a questo album con un pezzo Disappeared in cui si dice: quello che io voglio è che tu mi parli come facevamo un tempo, e se tu non ti, se non ti vedrò mai più, spero che tu sappia che tu eri il mio amico e nella mia testa il mondo non ti farà mai del male. Temi della della tristezza, della malinconia, della morte, tutto pensato nel contesto della mortalità, e questa è la prospettiva molto chiara ed esposta in modo diretto, sincero, senza fronzoli, in modo piuttosto disarmante alla fine, pensando a tutte le sovrastrutture, a tutto il... gli strati che invece riempiono sia a livello di testo sia a livello di musica, insomma l'atmosfera che ci circonda. Magical Clouds è un progetto fondamentalmente di Devon Welsh, un nome che sembra un po' una battuta, un po' come se uno si chiamasse Piemonte Valdostano o Veneto Lombardo, 27enne, classe 1988, canadese americano, cresciuto tra un ashram della California, un culto con sua mamma per qualche anno, e poi invece a Uxbridge, piccola località nell'Ontario, con il padre, una laurea in studi religiosi e teatro, e che nel 2010 cominciò a fare un po' primi esperimenti musicali per esplorare il lato performativo del fare musica, e nel 2010 pubblicò una cassetta in 30 copie che si dal titolo omonimo Magical Clouds, e di cui appunto adesso ci siamo tenuti come sottofondo il primo brano d'apertura, Clown Drunk, giusto così per dovere di cronaca. Ma adesso passiamo invece a quella che è la canzone preferita di tutti i tempi di Devon Welsh, insomma, per capire un po' anche cosa c'è in comune con questo artista, nel suo desiderio, una sua necessità quasi esistenziale di comunicare, di entrare in connessione, in empatia con l'ascoltatore. Parliamo di Elliott Smith, questa è la bellissima Angelis, contenuta in Either Or del 97. Someone's always coming around here trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you? Him as one of real skill. So glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play. To zero and sign up with evil Angela. Don't start me trying now. Cause I'm all over it, Angela. I can make you satisfied in everything you do. Canzone contenuta con altri di Elliott Smith anche nella colonna sonora di Good Will Hunting. Be forever with my poison on. E che Devon Welsh ha dichiarato appunto come prima canzone preferita di sempre, insieme a Arthur Russell, considerato lui il miglior paroliere esistente, ma anche pezzi punk come Manor Threat, Kurt Vile, ma è anche Nico, ma anche Alicia Keys, quindi assolutamente figlio dei suoi tempi, quando insomma tutta la musica di tutti i tempi, di tutti gli stili è disponibile tutti insieme. E torniamo ad un altro pezzo di questo bellissimo album di cui parliamo oggi, si chiama Control, un album pubblicato per la Matador Records, il secondo di questo duo che ha preso questa forma definitiva, diciamo, nel 2012. La parte musicale affidata invece ad uno studente, ex studente di elettroacustica e composizione, Matthew Otto, ovvero Matthew Otto, sempre di canadese di Montreal, dove hanno base poi i Magical Clouds. Questa appunto è Control. I want to, but I think you want me the same. guidance can I tell you about control? Devon Welsh canta: sto andando troppo piano? Pensi di sì, ma non aumenteremo la velocità, perché mi piace quando la canzone procede lentamente. Infatti quello che hanno scritto molti si chiama di sparo di un mid-tempo che non aumenta mai una velocità, conferendo un'uniformità a questo disco che appunto parla di empatia, parla di tristezza, parla di amore perso e ritrovato, parla della paura dell'amore. Un disco autunnale perfetto appunto per questa stagione. E questa era Control. E questo suono di organo è suono preponderante, è registrato in gran parte negli studi montrealesi di Arcade Fire, Godspeed You Black Emperor. Alla fine non è un suono neanche tanto moderno, nonostante poi abbiano avuto maggior accesso anche a dei mezzi produttivi. Alla fine si sono rivolti ad un vecchio Yamaha che produce questo suono di organo così confortante, così semplice. Ma nella carriera, dopo un inizio così un po' stentato nel 2010, c'è stato un primo vero e proprio album, anche se non viene proprio considerato nella discografia. Tutti parlano del disco successivo del 2013 come il debutto. Sì, il debutto con questa formazione, ma prima di allora c'è stato un album intitolato 2-2 numero romano, appunto di seguito alla quella prima cassetta autoprodotta nel 2010. Siamo arrivati al 2011 e questo album vede una partecipazione molto molto incisiva e costante di Grimes, ovvero Claire Boucher, amica dal 2007, fidanzata on and off dal 2007 al 2010. E questo è un collage di tre pezzi di questo album: Your Eyes, Holly Rain Beach e Wherever With You, cantato con Claire, ovvero Grimes. Un po' storto, dove aleggia la voce di Claire Boucher, ovvero Grimes. Lo stesso progetto Magical Clouds è nato a Halifax nel 2010, dicevamo stesso anno in cui Grimes pubblica Halfaxa, che contiene un pezzo intitolato Devon, Da allora, insomma, dopo la loro storia, comunque sono rimasti molto molto molto amici. Devon dice: la persona che mi ha influenzato di più, a cui sono più grato, perché poi anche vedere il suo successo mi ha dato motivazioni per andare avanti e fare le cose che volevo fare, anche se musicalmente è stato confermato proprio da Art Angels, uscito pochi giorni fa. Le loro direzioni musicali stanno andando in direzioni proprio opposte, mentre la signature, la firma di Magical Crowds è questo approccio minimalista, assolutamente, dove la voce, mano a mano, insomma, che hanno trovato la loro dimensione vera, con Matthew Oro, appunto, a partire dal 2012 e poi 2013 con le pubblicazioni successive, hanno trovato il loro equilibrio, dove la voce è al primo posto, anche perché c'è questa urgenza comunicativa fortissima che ha Devon Welsh di comunicare le cose in modo semplice, diretto, cosa che gli americani a volte definiscono imbarazzante, che ti mette a disagio, oppure che quando tu provi un po' ti vergogni per gli altri, no? Perché pensi che si stanno esponendo troppo, mettendo in ridicolo, quando invece al massimo può essere disarmante, perché non te lo aspetti e perché queste storie, che possono avere un'origine autobiografica, alla fine parlano a tutti, perché chi è che non si è mai trovato col cuore spezzato, oppure con la paura di amare, oppure non ha avuto un amico in difficoltà a cui stendere la mano per chiedere, per offrire l'aiuto in situazioni di depressione o anche di desideri suicidi, perché no? E facendo le ricerche per la puntata su Julia Holter, ho trovato una compilation di un'etichetta americana che si chiama Ad Hoc del 2012, che contiene un pezzo, appunto, fatto da Magical Crowds e Grimes, Song for Rick, e è questa qui. So chi sia questo Rick a cui è dedicata questa canzone, ma so che, appunto, facendo ricerca ho trovato un post del Tumblr di Grimes, dove, appunto, dice: ah, nel mio computer ho trovato questo pezzo vecchissimo fatto con Devon sul nostro gatto, che l'avevamo messo a dieta perché era troppo grasso. E tra l'altro, comunque, all'inizio Devon ha fatto tipo 8 album influenzati da Daniel Johnston e altri autori, quindi non proprio, insomma, un po' Mattarelli, che poi magari lui vendeva ad un dollaro a cassette in queste house party, perché tutta questa scena dove è nata anche Grimes è la scena DIY di Montreal, molto ricca, molto viva, fatta di party in casa, e dove una personalità ancora di spicco di questo mondo underground è Matthew Duffy, che era, insomma, il suo partner prima di Matthew Otto, quindi fino al 2012, un ballerino occasionale di Grimes, tra l'altro, a volte nei suoi concerti, un poeta, un performer, un autore teatrale, un artista di collage che collabora attualmente ancora con Devon Welsh in un side project che si chiama Believe, di cui ho trovato un album su Bandcamp, ma non ho potuto procurarmi una traccia da suonare, ma si basa soprattutto su queste poesie, questi flussi di coscienza molto molto curiosi ed eccentrici di Matthew Duffy. Ma, appunto, dicevamo, il rapporto con Grimes è stato un rapporto costante e fecondo, e la prima volta che, penso, la maggior parte della gente che ascolta musica ha mai letto il nome di Magical Crowds, e l'ho citato sicuramente ai tempi quando, parlando di Grimes e di Visions, parlavo di questa nuova moda di scrivere, a parte lo spelling, ma proprio l'uso di caratteri grafici particolari, e Magical Clouds è proprio il trionfo. Se vedete sia sull'album di Grimes sia sul loro tipo account Twitter, come ho copiato e incollato nell'evento di Facebook dedicato a questa trasmissione, anche il loro logo è formato di tutti simboli molto molto strani. E dicevo, la prima volta che ho letto questo nome e ne ho sentito parlare è stata appunto per il featuring, ovvero l'apparizione in Night Music del fortunatissimo Visions di Grimes, che avevamo sentito ai tempi solo nel mashup. Eccola qua. E il nome Magical Clouds è stato proprio sognato da Matthew Duffy, e quando gli è stato chiesto come mai questo spelling diverso dalle regole grammaticali, lui ha detto: no, ma io veramente Magical lo scrivo proprio così. E a questo proposito Devon ha detto che lo spelling alternativo, scrivere una parola in un modo diverso, la ricontestualizza, gli dà un nuovo senso, magari spogliandolo di quello che aveva, delle connotazioni di potere, che aveva un termine, e insomma si reinventa e si attribuiscono nuove caratteristiche. Tra l'altro, appunto, ascoltando su Bandcamp l'album dei Believe, che si chiama Darlet on the Brush, pubblicato nel 2014, e in un Ask Me Anything, ovvero queste iniziative che ha il sito Reddit di far fare qualsiasi tipo di domanda a un personaggio pubblico, musicista, che lì si offre, gli hanno chiesto se c'erano altri dischi di questo progetto parallelo. Lui ha detto che ce n'è uno che deve essere solo mixato, e c'è un progetto già in corso per un terzo album. E la cosa curiosa è che, oltre come indirizzo di contatto, oltre l'email personale di Devon B. Welsh, c'è anche un'altra email, che è Live in the Vivid Dream, come Life in the Vivid Dream, il pezzo, breve pezzo più o meno strumentale dell'ultimo disco di Grimes. E appunto, quando ho visto la notizia della canzone per il gatto grasso a dieta, il sito di Grimes, il Tumblr di Grimes, la definisce Surrealist EOP, Urban Fairy, Warrior Poet, Herbivore e ovviamente Art Angel. Comunque, fondamentalmente, l'avvicinarsi alla musica dopo una carriera anche alle superiori, aver scelto teatro insieme ai studi religiosi come materia di laurea al college, è stata una scelta alternativa a quella della recitazione, la musica, perché lui è figlio di un attore non conosciutissimo, Kenneth Welsh, famoso per noi per aver interpretato Windom Earl, l'agente FBI corrotto nella seconda parte della seconda serie di Twin Peaks. Quindi si è avvicinato alla musica esaltandone però appunto il livello performativo, perché appunto gli permetteva di essere sul palco, di comunicare le sue emozioni, comunicate molto molto bene, soprattutto in questo album, dalla title track, ovvero Are You Alone? Yeah. Essere una frase usata per rimorchiare qualcuno, per agganciare qualcuno in un locale, oppure chiederlo sinceramente ad un amico, come sembra in questa canzone, una persona amata che lotta magari con la depressione. E ci sono diverse citazioni per chi è più attento o più fan: Red Wine, Sleeping Pills, Cheap Sex and Sad Films, e anche riferimento a Lie Down in the Street, ovvero al video di Just, ovvero alle parole, i primi due versi di Motion Picture Soundtrack di Radiohead, che Devon ama molto, quindi ha detto, ho provato a mettercelo dentro e ci sta molto bene in questa canzone, che si chiede qual è il punto di una canzone veramente triste. Forse perché la tristezza a volte è un'emozione necessaria da provare, e come ha detto comunque Devon, questa canzone è una canzone sulla vita, sono un sacco di emozioni, già insomma cercare di cavarci le gambe, di andare avanti, a volte è facile, a volte è dura, è una canzone sul tenere, sull'avere interesse, sull'importarsi, portarsene, insomma, avere a cuore cosa accade alle altre persone. E comunque, appunto, vista questa citazione così sfacciata, non potevamo non ascoltare Motion Picture Soundtrack da Kirei nel 2000. essendo l'opera, l'arte di Damon Welsh così profondamente personale, non è stata una citazione appunto così a caso, perché ha dichiarato nel guest list questa cosa che fa Pitchfork, di prendere un artista e di fargli un po' domande appunto sui propri gusti, sulle proprie influenze eccetera. Alla domanda "band che ha cambiato la mia vita", lui ha risposto, al rischio di insomma dare una risposta banale, un po' un cliché, sono stati Radiohead. Comunque non dimentichiamo, lui classe 88, ha cominciato a ascoltare musica molto presto, quindi era abbastanza giovane, anche aveva un 12 anni quando è uscito Kid A, che aveva sentito dalla sorella grande dell'amico, come è successo a me, fratello grande della mia amica, che mi ha fatto conoscere un sacco di musica. E quindi sì, l'ha influenzato moltissimo, perché pensava, ah, questo è un suono sofisticato, maturo, pieno di gusto, e è stato come se avesse trovato una nuova vita. Ma andiamo avanti. Dopo l'abbandono del progetto Magical Clouds da parte di Matthew Duffy, nel 2011 c'era stato un singolo, Earth Your Friend Mountain Eyes, dedicata a questa canzone al suo amore per Grimes, ma dopo quell'anno, quello stesso anno, nel febbraio 2012, Matthew Oro entra stabilmente insomma come partner musicale in questo duo. Dal febbraio 2012 si erano già conosciuti da qualche anno, sempre in questi house party della scena alternativa DIY di Montreal, e cominciano insomma a fare un po' di prove insieme, fanno un primo spettacolo, poi ne fanno un altro, poi Devon racconta che proprio è stato un corteggiamento della serie, ma magari ti va se facciamo questa cosa insieme, ho scritto questa cosa, se vuoi ci lavoriamo insieme. E alla fine il primo prodotto ufficiale è stato un Turns Turns Turns EP, 4 pezzi, pubblicato nel dicembre 2012, pezzi che non rappresentavano ancora completamente l'idea di musica che volevano fare, tranne però forse questo pezzo, la title track dell'EP, che è stata poi contenuta, messa anche nell'album ufficiale successivo. Questo EP che già aveva attirato l'attenzione della Merrok, l'etichetta di Milo Cordell, dei Big Pink, e dell'Arbutus, l'etichetta canadese. Che appunto questo EP che contiene pezzi molto diversi tra loro, anche What That Was, dedicato al suo miglior amico Neil Corcoran, è la canzone forse più pop che possono aver mai fatto. E questo pezzo invece ha trovato posto anche nell'opera successiva ed è veramente bello. Watch out when you face by what you don't know. Eyes turn. Questo è il pezzo in cui la sua voce mi ricorda di più il timbro degli Yannis Filippakis, dei Falls, come anche un po' a volte Paul Banks degli Interpol, mentre altre volte l'incedere ricorda qualcun altro. Lo ascolteremo più tardi. Questo è Turns Turns Turns EP di fine 2012, poi contenuto nell'album successivo, quello che ha segnato il vero e proprio debutto di questa formazione attuale e che è stato riconosciuto da soprattutto i grandi media musicali. Anche Pitchfork l'aveva messo all'ottavo posto degli album dell'anno, ma ne parleremo dopo, perché siamo arrivati al mashup, il The Are You Alone Mix, composto di 4 pezzi. Cominciamo da questa bellissima So Blue, che mi ricorda invece molto, diciamo nel ritornello, la voce dei Future Islands. I wasn't here. Se in questo So Blue ci fosse un po' di raschiatura di gola, sembrerebbe proprio Sam Herring. E siamo passati a Heavy, forse il pezzo preferito di Matthew Otto, che insomma il titolo è poca ambiguità, pesante. Il ritornello è: devi imparare ad amarmi perché io sono quello che sono. So in our love, I'm broken, I feel it, I am. But I know questo pezzo si chiama Easier Said Than Done, più facile a dirsi che a farsi, e infatti si riferisce al suicidio. You tell me why we're here. Non so perché ho scritto che questo pezzo mi ricorda Blowing in the Wind, riascoltandolo completamente. Tra l'altro c'è Bob Dylan attaccato a casa mia questi giorni. Doesn't hurt when you're alone, it gets much worse. You say it's stupid to be upset. Ah no, è questa, Easier Said Than Done. You smoke another cigarette. Quella di prima era Change. Why would you wanna hide? We will see you through. And what about your love? You don't know what you're doing. You don't. It's so hard to tell me so, then I guess you don't want to. You don't know what you're doing. Questa invece è Game Show, uno, forse l'unico pezzo salvato dalla scrittura da tutto quello che avevano già registrato, provato, scritto, prima di un'esperienza che ha cambiato radicalmente la loro prospettiva, ma ne parliamo più tardi, non spavento. Si tratta di eventi luttuosi, di cose brutte, e questa game show hanno appena postato, e noi quindi l'abbiamo rimbalzato subito, un video bellissimo in bianco e nero del live release show dell'album il 21 ottobre scorso, A National Sawdust di Brooklyn, molto molto bello. La caratteristica poi della performance di Devon Welch è guardare fisso negli occhi qualcuno con uno sguardo, bisogna dirlo, un po' da matto, occhi che sono stati definiti un po' da insettone. Questo aspetto assolutamente ascetico è il fatto di avere proprio un uniforme, ma appunto adesso è iniziato un altro pezzo. Uno dei pezzi che ha dichiarato sono i suoi preferiti di tutti i tempi, l'abbiamo già citato prima, Courvyle, questa è Dead Alive, tratta dall'album del 2009, Childish Prodigy. Col passare del tempo, dopo un po' una crisi d'identità, dopo che aveva finito gli studi, è andato a Williamsburg, a New York, un po' per riflettere, per capire che direzione voleva prendere la sua vita, la sua attività musicale. Come ho detto, aveva scelto la musica in alternativa alla recitazione, sentendo sempre un po' l'ombra di suo padre. Infatti in Uxbridge, in questo posto piccolo dell'Ontario, lui era sempre insomma etichettato come il figlio dell'attore, non voleva seguire le sue orme, quindi si è dato alla musica, ma appunto come necessità di esprimere assolutamente le proprie emozioni in modo crudo, diretto, e con il passare del tempo ha assunto questa sobrietà ascetica che si riflette anche nel suo aspetto, un'autodisciplina, una metodicità anche nel lavoro, e poi appunto sui grandi interessi per la religione, per la politica, e poi sul lato serio, il suo interesse per il lato serio di ciò che fa un clown, perché uno si aspetterebbe che una persona depressa e triste e giù, invece ride molto spesso e fa ridere molto spesso, si può vedere alla fine del video di Silver Car Crash, mi sembra, dove fa un sacco di facce, e non a caso insomma il mito della sua vita è Andy Kaufman. E l'aspetto, dicevo, ha assunto nel tempo questo aspetto così quasi minaccioso, i capelli rasati, perché ha deciso di sceglierla come soluzione piuttosto che lavarsi i capelli. Si rasa la testa a zero e poi pantaloni neri e maglietta bianca, è così che si vede sempre, e anche insomma dando anche un po' un'immagine, una percezione sbagliata. Una ragazza polacca, prima di un suo concerto si aspettava che questo fosse uno skinhead che facesse musica oi, hardcore pesissima, invece appunto è rimasta sconvolta. Ma vabbè, sei polacca, mi dispiace che lì c'è quella musica lì, e niente, sta finendo Dead Alive di Courvyle. Abbiamo parlato dei pezzi preferiti, ma parliamo anche della musica che ha ascoltato quando era magari meno consapevole del mondo musicale che lo circondava, o ancora non aveva ben chiaro. E appunto lui racconta che crescendo, quindi stiamo parlando comunque, ci aveva sempre 10 anni e qualcosa, diciamo che prima dell'incontro dei Radiohead ha avuto una grande passione, dice: sì, mi rendo conto che è imperdonabile, non lo posso giustificare, per il Limp Bizkit, per questo è Break Stuff, dell'album di quel periodo di cui parla lui. Ovvero Significant Other del 99. Abbiamo fatto, abbiamo seguito alla lettera quello che ha detto alla domanda della guest list: primo disco comprato con i miei soldi. Cioè, la prima musica che mi è piaciuta era Sarah McLachlan e Mariah Carey, quindi questo lo avvicina moltissimo a Grimes. E poi invece allo stesso momento, simultaneamente, o le boy bands o il new metal, quindi o Best Streets Back o Significant Other è la stessa cosa. Quindi per la prima volta Limp Bizkit e Backstreet Boys a Mighty FM, qui Playing Games With My Heart. Ma si sa che noi Mighty FM siamo assolutamente ligi a quello che leggiamo, cioè nel senso diamo seguito. Se lui mi dice che ascoltava da piccolo Backstreet Boys, io penso che sia necessario in questa trasmissione far sentire anche i Backstreet Boys. Ma questo appunto è il segno del fatto che una persona nata nell'88, quando aveva 10 anni in Canada, comunque aveva l'accesso a qualsiasi cosa. E come dico spesso, ci sono meno barriere e differenze tra generi per noi incompatibili di quanto noi invece non pensiamo, che relativamente al rapporto tra quello che noi consideriamo indie alternativo e per esempio tutta la scena hip hop. Ma torniamo a questo bellissimo album di cui stiamo parlando oggi, Are You Alone, il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album a settembre, questa bellissima Silver Car Crash che mi ricorda musicalmente un po' nell'esplosione di White Noise in Shoo Shoo. I never show it. E che ha dei riferimenti eccellenti. But I am always laughing. Tra There Is a Light, The Never Goes Out, The Smiths. I want to kiss you. Voglio baciarti dentro un'auto che sta andando a sbattere. E ovviamente Crash di Ballard. And we will both die laughing. Moriremo ridendo. Cause there is nothing left to do. And we will both die laughing while I am holding on to you. And I know love is worth it. you. Tutte le canzoni sono disperate o sembrano un manuale di autoaiuto o di counseling, a seconda del lato della linea telefonica o del tavolo dove ci si può trovare, nelle tribolazioni, nei patimenti della vita, ma anche un album pieno di canzoni di folle amore, di amore totale. Quando Devon dice: ho paura dell'amore, e se non sono perfetto, questo amore mi farà morire di fame. Ma io sono sempre perfetto quando sono attaccata a te e so che l'amore vale la pena amare, perché io sono in amore perfetto, innamorato perfettamente di te. E andiamo avanti ascoltando invece quello che è stato il pezzo di punta di Impersonator. Siamo arrivati al cosiddetto breakthrough del 2013, questo Childhood's End. Someone died, gunshot right outside. Your father, he is dead. I see him in my head. Childhood's end. Can you see me caving in? Went down. It's went down on me, baby. La fine dell'impatto. Per un trauma, la morte di un padre ucciso, sparato. Questo pezzo l'abbiamo già sentito a Might FM, l'abbiamo sentito tra i migliori pezzi per Pitchfork del 2013, un pezzo veramente fantastico, dove Devon applica la sua tecnica di manipolare anche le vocali, dando anche il senso che stia dicendo altre cose. Questo mi, mei, mei, e poi come, che sembra che dica come home, ma non è così. E dicevamo, questo album Impersonator segna l'esordio per la Matador, ottavo disco dell'anno per Pitchfork nel 2013, una base synth pop ma ad un passo glaciale, con pezzi scarni formati solo da 3-4 elementi per canzone. Pitchfork dice a riguardo: come se a una festa in casa una sola persona si fosse fatta di ecstasy e andasse da tutti con sudato e intenso a guardarmi negli occhi, dicendo cose come: amico, prima o poi morirai, come un testimone di Geova che ti suona alle 7 di mattina a casa per salvarti, o un membro di Alcolisti Anonimi che interrompe la tua pausa pranzo per spiegarti come la sua paura di essere amato l'abbia spinto a rigarti la macchina con la chiave. Che c'è questa urgenza, questa emotività estrema, corredato da dei suoni molto semplici, appunto pochissimi elementi, che rispecchiano la purezza e lo stile così diretto dei testi, in cui le parole sono scelte con estrema cura, come se appunto fosse una questione di vita o di morte dire esattamente quelle parole ed assicurarsi che raggiungano l'ascoltatore proprio con la stessa intenzione che le pronuncia. Me. e come ad un ascoltatore attento sarà apparsa assolutamente macroscopica la somiglianza nell'incedere del cantato, come spesso succede a Devon Welsh, come spesso viene citato come insomma comprimari tra gli XX e appunto i National. Giusto per rimanere in tema, ho scelto di far sentire Sorrow di I Violet del 2010, a cui dedicammo una puntata di Mate FM. It's in my honey, it's in my bed. It's only my hyper heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Sorrow's my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cage. Still in a city, sorrow built. It's in my honey, it's in my bed. It's only my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy. E poi adesso ascoltando penso che poi le note ci dicono anche con il coro, il mini, il midi, Charles of M. Ma siamo qui per parlare di Magical Clouds, per se qualcuno non avesse ancora capito, questo duo canadese Devon Welsh e Matthew Oro di base a Montreal, che hanno appena pubblicato questo album bellissimo Are You Alone, che potrebbe essere liquidato ad un ascolto superficiale come una rottura di scatole, una cosa lenta, monotona, e invece ad un ascolto più attento è veramente confortante, bellissimo, questa musicalità così accennata, così delicata. E ci sarebbero tante tante cose da dire, e come al solito io scrivo pagine e pagine di cose. Posso dire appunto il suono dell'organo che è imperante, e che la maggior parte del disco è stato scritto tra Uxbridge, appunto l'Ontario, Montreal e Detroit, perché un amico di Devon aveva una stanza libera. A volte appunto i musicisti fanno così, è uno spazio tranquillo dove io posso andare a scrivere. È andata a Detroit e ha scritto praticamente metà album su questo organo Yamaha, questa tastiera che ha dato questo suono di organo. E un'altra canzone che sembra che sia una ripetizione dopo Are You Alone è If You're Lonely. La maggior parte delle canzoni di Devon sono proprio come se si rivolgesse ad un amico, raccontasse la sua esperienza. Infatti qui racconta: per la prima volta io una volta mi sono innamorato e ha cambiato la mia vita, ho imparato ad amare qualcuno, non sarei più stato solo. Poi però l'amore se n'è andato via, io ero ghiacciato, congelato, paralizzato, non volevo perdere quell'amore, non volevo lasciare, abbandonare una parte di me stesso. E da lì la paura ancora di innamorarsi, ma poi questa paura viene vinta e si vede anche quando sono dei momenti in cui pensi che non ci sia nessuna speranza, e quindi è anche un album pieno di speranza, appunto come se fossi un counselor che racconta la sua esperienza, oppure appunto questi gruppi tipo Alcolisti Anonimi. La serie, guarda, ci sono passato pure io, però vedrai che alla fine le cose cambiano. I thought I didn't need the pain. I thought that in my heart I had to be on my own. Now I see it, I was wrong to feel that I couldn't feel love, that I couldn't love again, that I couldn't make new friends and be someone new. So if you're lonely, don't have to be all alone. No one has to be that way. No one has to be afraid of being loved. E quindi se sei solo, ti senti solo, stai male per questo, non devi stare da solo, nessuno dovrebbe sentirsi in questo modo, nessuno dovrebbe avere paura di essere amato. E siamo passati a un pezzo di uno dei dischi più belli del 2014, assolutamente trascurato, non visto, overlooked, come si dice, l'ho già detto altre volte, ovvero In Conflict di Owen Pallett. Perché? Perché Owen Pallett è stato chiamato, non a caso, per curare un po' gli arrangiamenti, per dare un po' di dritte sulle orchestrazioni, anche a livello di batteria analogica, di viola, di archi. E quindi non potevamo non farlo sentire, perché è sempre bellissimo ascoltare Owen Pallett, e questo è Song for Five and Six. Owen ha dichiarato, a proposito del disco: non volevo mettere niente di superfluo, volevo rispettare il suono così scarno ed essenziale del gruppo, e la teniamo in sottofondo. Andate ad ascoltare In Conflict, è meraviglioso. Parlare del contenuto di Are You Alone, concentrarsi su cosa è importante, cosa ti viene fuori quando crei musica e testi, dire ciò che ti smuove di più, il come sia meglio o più efficace è una cosa che si affina con tentativi continui, ha dichiarato. Working at saying the things you want to say effectively until it just works. E infatti il linguaggio diventa essenziale, diretto, ma non ermetico, perché c'è sempre questo aspetto di dialogo in due direzioni, di conversazione, non di dichiarazione. Molto spesso le canzoni suonano come degli statement, delle dichiarazioni. Io dico, questa cosa è così, per me è così e basta. Invece con i pezzi dei Magical Clouds c'è sempre questo doppio senso della comunicazione. quindi testi non ermetici, ma al contrario, le frasi sono così semplici e banali che fanno quasi sorridere su uno sfondo scarno ed essenziale. Ho scritto bando alle stronzate, quello che canta sono le cose fondamentali della vita, l'amore, la morte, il dolore, la paura, ma tutto su una base empatica. E poi appunto con l'aspetto performativo, che è quello che più apprezza Damon Welch del fare musica, comunicare queste emozioni diventa ancora più efficace. Come ho detto, una delle caratteristiche dei suoi live è che lui fissa diversi membri del pubblico e sostiene lo sguardo, uno sguardo che non vacilla, che non, appunto, che non batte ciglio, provocando anche appunto reazioni emotive molto molto intense, ovvero gente che si mette a piangere, come assolutamente farei anch'io. The stick smash on the flatbed boys on the ball. E diciamo l'altro highlight di Impersonator, questa bellissima Bugs Don't Buzz, dove in un video i protagonisti sono degli insetti, degli scarafoni, diremmo. Forse il pezzo più espressivo, più drammatico anche nel cantato, più lirico. Quando arriverà la loro ora e noi saremo proprio come scarafaggi, amore mio. Tutta la sua arte viene vista nel contesto della mortalità. Se la vita potesse essere per sempre, un solo istante, potrebbe essere il momento in cui mi hai incontrato? No, amore mio. Piacere a crogiolarti in uno stato di tristezza, perché è confortante, chiaramente lo senti di più quando hai 16-17 anni, però succede ancora. Ma come dicevo, ci sono canzoni di folle, lucido amore, a parte Silver Car Crash, ma anche questo che è il secondo singolo che ha anticipato l'uscita dell'album qualche giorno prima, all'inizio di ottobre, si chiama Downtown. Abbiamo pubblicato tutti e due i video, dove c'è, oltre alla sua divisa normale di maglietta bianca, ho notato che ha la stessa camicia in tutti e due i video e sicuramente anche nel live di presentazione dell'album, visto questa camicia molto bella, rosso sbiadito, e fa le sue facce da matto. Cause it just feels good being in your arms. questa canzone fa sorridere con la lacrimuccia. As fast as I can. E poi canta in modo così disteso, così chiaro, che i testi si capiscono benissimo. And we're going downtown. Cause we feel like running around. Is it really this fun when you're on my mind? Is it really this cool to be in your life? Una canzone sull'innamoramento folle, quasi l'incredulità che accompagna certe emozioni. If it ever goes wrong, I'll write you into all of my songs. E qui il clou. Suddenly I die. I hope they will say that he was obsessed and it was okay. Parte di idolatrare la persona di cui ti innamori. Il pezzo inizia con: niente di quello che dici potrà mai essere sbagliato perché si sta troppo bene tra le tue braccia. E poi dice: però c'è una cosa che farò. Se le cose si mettono male, se andrà a finire male, ti scriverò dentro tutte le mie canzoni. E se morirò, e se muoio all'improvviso, spero che diranno che lui era ossessionato, ma era ok. Is it really this cool to be in your life? And I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy. I'm going crazy, crazy for you, for you. E tutto viene esaltato da questa strumentazione minimale, questa maestria che ha Matthew Otto di creare trame musicali o layers of texture che esaltano il messaggio così diretto, nudo e crudo. Ma l'esperienza che dicevo che ha cambiato un po' la carriera e la prospettiva come artisti di Magical Clouds e che ha fatto buttare nel cestino un po' tutto quello che avevano fatto, perché già ci avevano lavorato, insomma, dopo Impersonator, che è uscito a maggio del 2013, dopo un tour che aveva riguardato l'estate un po' a settembre, avevano cominciato chiaramente a lavorare al nuovo album nel 2014, ma tutto ciò è stato buttato nel cestino, a parte Game Show che abbiamo sentito prima nel mashup, perché sono stati scelti, ma proprio scelti direttamente da Lord per fare il gruppo di supporto d'apertura per il suo trionfale tour del Nord America, cioè Stati Uniti e Toronto, nel settembre-ottobre del 2014. È stata veramente una consacrazione, a parte averli fatti conoscere da questa torma di ragazzine di scuola media, anche bambine delle elementari che erano presenti ai concerti di Lord. Ma appunto ha cambiato una direzione musicale, perché tutto quello che era stato fatto prima è stato cestinato a favore, però appunto non un approccio più strutturato, anche appunto avendo poi chiaramente accesso magari a maggiori mezzi a livello di produzione, ma invece ha mantenuto le cose a livello assolutamente minimale. Ma anche nel tour con Lord, lui praticamente Matthew Otto tiene la sua strumentazione su un asse da stiro e Devon, non suonando nessuno strumento, cioè però tiene il microfono in mano e basta, sempre la sua maglietta bianca e i suoi pantaloni neri, mentre Matthew Otto vestito di nero, assolutamente nessuna scenografia, nessun effetto speciale. E racconta Devon che Grimes gli chiese di suonare ad un party pre-Grammy a Los Angeles nel 2014, credo, e mentre loro stavano suonando lui vede Lord che stava cantando le loro canzoni. Ma la cosa divertente era che invece quando erano in tour nel 2013, che è stata un'esperienza molto molto stressante che li ha portati proprio quasi al limite psicologico e fisico, era che ovunque andassero, quando guidavano per gli Stati Uniti, non sapevano neanche chi la cantava, ma sapevano assolutamente a memoria Royals, perché era la canzone che andava in tutte le radio. E cosa stiamo ascoltando di Lord, la cui R-Mosh a volte mi urta? Una versione minimale che ricorda quindi molto lo stile di Magical Clouds rispetto a quello originale, nel suo pezzo Flicker, cioè questo si chiama Flicker, è diciamo il rework che ha fatto addirittura Kanye West, contenuto sia questo che la versione originale della colonna sonora di Hunger Games Mockingjay Part 1 nel 2014, Flicker. Insomma, Lord è stata la fata madrina, ma proseguendo la loro carriera, perché noi alterniamo sempre pezzi dei lavori precedenti insieme ai pezzi dell'album di cui stiamo parlando, avvicinandosi sempre al suono che hanno perfezionato sempre di più in questo Are You Alone, in mezzo tra Impersonator e il nuovo album è stato pubblicato questo singolo, Savage, poi pubblicato con un altro pezzo in un EP, un singolo con due pezzi, sempre nel 2014. Tra l'altro il video che abbiamo postato riporta proprio la mano di Devon, immagino, mancino, e non mi stupisce che man mano che la canzone procede lui scrive il relativo testo su questo quaderno. Dicevo, questo pezzo poi pubblicato insieme a Love Soul, che è un pezzo che non ho potuto trovare perché la pagina non esiste più, era un video, la musica per un video interattivo che era nel loro sito, che però appunto non si è più, è stato pubblicato in un 7 pollici invece, a edizione limitatissima nel giugno 2014, con 28 pagine del diario di Devon tenuto durante il tour dell'agosto-settembre 2013, quello in cui praticamente hanno sboccato. Savage. Jumping on the tracks before the train, high on alcohol with you, running down the mountain to the pool. I love you. Mm-hmm. fall down. Hit your head on the stairs. Come sempre Maite FM offre degli spunti, nel senso, ma perché parli sopra le canzoni? Perché io ti faccio sentire le canzoni, poi se ti piacciono e hai la curiosità di andare a scoprire questa artista, poi te le vai a riascoltare. E quindi, parlando della critica specializzata, facendo sempre riferimento a Metacritic, in 17-18 recensioni c'è una bella media dell'8. Ci sono solo quegli ignoranti di Uncut che hanno liquidato l'album dicendo potrebbe essere usato come cura per l'insonnio. Io dico, ma se tu scrivi su un giornale di musica così, insomma, autorevole, non puoi usare queste metafore da scuola media per giudicare un disco. Ma comunque Rolling Stone 7, Pretty Much Amazing 6,7, Billboard 7, Drowned in Sound, poi una sfilza di 8, compreso quello di Pitchfork, Drowned in Sound, Line of Best Fit, Spin, Now Mag, Exclaim, Guardian, No Ripcord, insomma praticamente tutti, Consequence of Sound, no, anche di più di 8. Ma siamo arrivati ai She Devils. Chi sono i She Devils? Sono un gruppo di amichetti loro che, infatti, hanno nominato anche sugli Ask Me Anything di Reddit, che sono gruppi locali che loro sostengono e supportano. E abbiamo visto che proprio tipo 3 giorni fa hanno postato questo nuovo video e chiaramente i Magical Clouds l'hanno subito rimbalzato sul loro Twitter. Questo pezzo si chiama Come. Duo sempre di Montreal, formato da Audrey Ann e Kyle Yuka, chiamandosi Yuka, è biondissimo. Quindi loro li promuovono quando possono, spesso fanno da supporto e li hanno voluti anche per questo live show, release show molto speciale che hanno fatto per il lancio del disco a New York, appunto il 21 ottobre. Tornando alle recensioni, è un album che disseziona le dinamiche di potere dell'amore, il panico dell'identità. Come nella tradizione del synth pop, insomma, queste tematiche. Siamo ancora a Rio Alone, espressione di simpatia, compassione, solidarietà. Può essere anche una battuta per rimorchiare o uno scherno vagamente minaccioso. I Magical Clouds riescono a evocare tutti e tre questi sentimenti, ma in altre recensioni ho detto, ma alla fine quando ascolti questo disco la risposta scontata è no, sei solo? No, perché come si fa a sentirsi soli con queste bellissime canzoni tristi attorno? La cosa che mi ha stupito è che il recensore e la recensitrice di Pitchfork ha basato tutta la recensione parlando di sadness, tristezza, ovvero il personaggio del cartone animato Inside Out, appunto raccontando la storia del film e dicendo come appunto alla fine ci si rende conto, anche quella pazza esaltata maniaca del controllo di Joy, della gioia, che la tristezza è un sentimento necessario, un catalizzatore necessario di emozioni che favoriscono la crescita. E così è anche l'emozione che scatena l'ascolto di questo disco. Siamo arrivati alla fine di Come dei She Devils, siamo arrivati alla fine di questo Might FM, un ascolto bellissimo, un ascolto autunnale, un ascolto intimo e raccolto, molto confortante, anche perché appunto parla di cose che tutti abbiamo vissuto una perdita, un lutto, un abbandono, abbiamo attraversato il deserto, abbiamo guardato al futuro con speranza, ci siamo ripigliate. Ed è così che finisce l'album, con questa Call on Me, che è un po' simile a You've Got a Friend, cioè se stai male, chiamami, rivolgiti a me, io ci sono. I am your friend till the end of your life. Sarò tuo amico fino alla fine della tua vita. Nel 1988 siamo nati e siamo sopravvissuti. Nel momento in cui sto cantando adesso, noi siamo vivi. Lettura consigliatissima, la cover story dedicata a Magical Clouds di Pitchfork. L'articolo di Stereogamma uscito il 13 ottobre, Album of the Week, quando è uscito l'album, e i testi di questo disco. Amico fino a che non sarò steso a terra. Quest'ultima strofa veramente struggente, quante volte ho usato questa parola a Mike FM. Come un lungo finale di un film che ho visto, cavalcheremo in cima a quella collina, metteremo una lacrima nei loro occhi, mi ricordo come finisce, noi sopravviviamo e il pubblico fa un sospiro di sollievo. Yeah, Magical Clouds, Are You Alone? Ciao, la Claudia Mighty.